La notizia del malore capitato a Yasser Arafat, probabilmente causa di un tumore allo stomaco nella sua fase terminale, e che le autorità israeliane l'hanno già per spacciato, potrebbe prevedere il ritiro dalla vita politica dell'anziano e provato leader palestinese, causando un enorme e pericoloso vuoto di potere all'interno dell'autorità nazionale palestinese. Un vuoto politico che avrebbe come conseguenza il distacco definitivo della popolazione palestinese dal suo stesso governo. Infatti, al momento, non vi sono all'orizzonte candidati che possano ereditare autorevolmente il ruolo guida che ancora, indiscutibilmente, ricopre il presidente palestinese. L'intera classe politica palestinese e persino lo stesso Arafat sono accusati di corruzione dalla stessa popolazione. Arafat è infatti accusato di versare in un conto personale in Francia, intestato alla moglie, i finanziamenti destinati alla causa palestinese. Ed è impensabile che qualcuno di questi ambigui figuri possano sostituire il leader nel governo e principalmente nella difficile opera di mediazione con i movimenti della resistenza armata. È un dato chiaro persino alle autorità israeliane, le quali però hanno approcci differenti. I laburisti, con a capo Shimon Peres, si sono sempre opposti ad un'estromissione forzata e prematura di Arafat, prima ancora che si riconosca una figura politica con la caratura necessaria per la sua sostituzione. Il Likud, invece, considerando la pericolosità di un vuoto di potere all'interno della causa palestinese, ha sempre chiesto l'allontanamento, anche coatto, di Arafat e la sua sostituzione con personalità politiche non ben definite. Proprio quest'ultimo dà per scontato che l'anziano presidente palestinese non si riprenda più dal suo malore, pensando già al dopo Arafat. Il governo israeliano ha addirittura sospeso l'esilio che ostacolava i movimenti del leader palestinese per permettergli di curarsi all'estero, fiducioso che una volta uscito dai territori palestinesi, Arafat non avrebbe più potuto rientrarvi, o per decesso o per divieto militare. Le autorità israeliane però non devono cadere nell'errore di poter facilmente sostituire il vuoto di potere in tempi rapidi, non devono credere di poter mettere al posto di Arafat politici corrotti e privi della necessaria fiducia dell'opinione pubblica palestinese. Con personaggi di basso livello politico al vertice dell'ANP, gli israeliani perderebbero il controllo, garantito dal centralismo politico di Arafat, sui movimenti che infiammano la causa palestinese, destinando la situazione in Palestina ad una drammatica escalation di violenza. Senza la presenza di un leader forte e universalmente riconosciuto dal popolo palestinese, non ci potrebbero essere neanche i timidi colloqui e gli incerti cessate il fuoco tra le parti che riescono talvolta a interrompere la spirale di tensione tra le due popolazioni. Per sostituire Yasser Arafat al vertice della politica palestinese sono necessari uomini rispettati prima dal popolo palestinese e poi dalla politica internazionale. Questo è stato sufficientemente chiaro quando fu nominato primo ministro Abu Mazen, politico palestinese apprezzato dall'ambiente politico internazionale e ben visto dal governo israeliano, ma totalmente isolato dalla base popolare palestinese. Il suo mandato fu un fallimento, come gli accordi di Oslo ai quali partecipò nel 1993, ed il governo diede le dimissioni nel giro di pochi mesi, lasciando le parti nel caos politico fino alle elezioni del nuovo premier. Lo stesso successore Abu Ala, fondatore dell'OLP insieme ad Arafat e considerato come un duro sostenitore dell'indipendenza palestinese, non gode appieno della fiducia del proprio popolo e dei movimenti di resistenza. Per il momento però l'attuale premier palestinese è la figura più indicata a reggere il potere nel periodo di transizione politica, fino alla conoscenza delle reali condizioni di salute di Arafat. L'unica figura politica che possa riempire il vuoto di potere lasciato dall'anziano presidente, nella previsione che Arafat non sia più in grado di tornare ad occupare il suo posto, è Marwan Barghouti, leader delle brigate di Al-Aqsa, detenuto da altri 2 anni nelle carceri israeliane. Barghouti fu arrestato con accuse approssimative e spropositate dal governo israeliano al fine di estromettere la politica palestinese, in quanto la sua ascesa politica era in visa di Israele. Per la politica israeliana la pericolosità di Barghouti risiede nel fatto che è considerato come un leader incorruttibile e amatissimo dalla popolazione. Tuttavia, considerato chi gestisce il potere in Israele, è fortemente probabile che venga decisa la scarcerazione di Barghouti, mentre molto più verosimile è l'eventualità che Yasser Arafat venga sostituito da una personalità politica già individuata da tempo, secondo un percorso politico segretissimo messo a punto tra una parte dell'attuale classe dirigente palestinese e alcune figure di spicco del governo di Tel Aviv. Ipotesi di fantapolitica? Staremo a vedere. Stefano Minutino Turtu, reporter associati per Amistad Radio.